Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sto finalmente per arrivare. Sono 2 giorni che viaggio. Ho un po' di nausea da auto che sobbalza sullo sterrato degli ultimi chilometri prima dell'ospedale. Sono in Angola, nell'Africa di Sud-Ovest, un paese grande 5 volte l'Italia, con 1/3 della nostra popolazione. Mi chiamo Massimo Brenna, abito a Como, ho 56 anni, sono chirurgo generale e sono coniugato con 3 figli di 27, 25 e 20 anni. Mentre sta lentamente calando la nebbia su Milano, su questo martedì 18 dicembre 2012, sono le 16 e quasi 8 minuti, oggi voglio di raccontarvi questa storia, che è la storia di Massimo, lo avete sentito nella sua breve presentazione e nell'intro della puntata di oggi. Massimo è uno di quei medici che lavora come medico e quindi vive di quello che fa e ogni tanto si prende una pausa e va invece a fare quello che sa fare gratuitamente per aiutare delle persone che non hanno quella fortuna lì, non hanno la fortuna di avere una medicina pubblica, figuriamoci, ma nemmeno di avere un medico vicino a casa. 349-238-6666, è proprio preparando questa puntata che abbiamo pensato a che fortuna è avere il medico di famiglia, ma soprattutto che figura è quella del medico di famiglia, il vostro medico, che cosa vi ricordate di lui se lo frequentate poco, che cosa sapete di lui se lo frequentate invece tanto, magari una volta a settimana o una volta ogni 2 settimane se siete particolarmente ipocondriaci, che tipo è, come si chiama, come si comporta. I medici sono una figura che fanno parte del nostro immaginario e della nostra memoria. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @Radio24, se avete un profilo Facebook, perdonatemi, Twitter, il nostro account è Voi Siete Qui R24 e l'hashtag di oggi è Il Mio Medico. Mi scrive ad esempio Rachele: il mio medico si chiama Pier Giuseppe, lo conosco da prima che diventasse medico e nonostante sia giovane, circa 50 anni, i punti di vista sono sempre, diciamo, in base alla propria posizione, si è convertito da poco all'uso del PC, che finalmente gli evita di dovermi chiedere ogni volta scusa, a cosa sei allergica che non ricordo? 349-238-6666, ne approfitto per salutare il dottor Martelli, che è mio medico di famiglia da sempre, figlio del dottor Martelli, anche lui medico di famiglia da sempre, prima il babbo e adesso il Paolo. Cristiana: la mia dottoressa è una donna, molto asciutta ma molto brava. E soprattutto una di quelle persone che cerca di aiutare i pazienti e non dispensa medicine come panacea di tutti i mali. Durante Vendo Tutto ricordo che incontrai questo signore che comprò, con esattezza comprò il porta CD, comprò il mio porta CD, se lo porto via con pochissimi euro ed era un porta CD, devo dirvi ragazzi, di tutto rispetto. Lui era un medico di famiglia e nel tragitto che facemmo qua sotto la radio dalla mia auto alla sua auto per trasportare il porta CD, lui mi disse che gli piaceva questo tipo di programmi perché c'era da ascoltare e lui era abituato molto ad ascoltare, perché mi diceva: i miei pazienti, più che raccontarmi le loro farsi visitare e dirmi quali mali hanno, hanno bisogno di raccontarmi come si sentono, e non è quasi sempre, anzi quasi mai, legato in realtà alla salute fisica. 349-238-6666, qualcuno già scrive: il mio medico di famiglia, santa donna. Enrico: il mio medico è un grande. Vabbè. E poi Masha: il mio medico è la mia dolce zia Gabriella, mi conosceva da quando sono nata, è uno di quei medici che vengono ringraziati ancora con il cestino di uova fresche o il coniglio o la gallina per il brodo. Esiste una differenza tra la gallina normale e la gallina per il brodo? No, è la gallina. Va bene, Tiziano Bonini suggerisce il vecchio detto che non citerò riguardo la gallina vecchia e il brodo perché lo conosciamo più o meno tutti. Tiziano, oggi vogliamo fare anche un ringraziamento ufficiale alla tua dottoressa che tu vedi molto di frequente, che non so come si chiami, ma è come se fosse... Però sta bene, Bonini dice che sta bene, per gli amici anche ipocondria. 349-238-6666, il vostro medico, il medico di famiglia, chi è, com'è e cosa vi racconta. 22 gennaio, 17 febbraio 2012. Finalmente sto per arrivare. Sono 2 giorni che viaggio. Ho un po' di nausea da auto che sobbalza sullo sterrato degli ultimi chilometri prima dell'ospedale. Sono in Angola, nell'Africa di Sud-Ovest, un paese grande 5 volte l'Italia, con 1/3 della nostra popolazione, neanche 20 milioni di abitanti. Qui sostituirò il chirurgo e la moglie internista. I letti sono tanti, circa 200, e i malati sono molto gravi. Il giorno dopo sono già in sala operatoria. Devo amputare un dito della mano a Madò, una splendida bambina di 4 anni che ha subito una mordedura de cobra, come dicono qui. Impossibile spiegare che se fosse stato un cobra sarebbe già morta. Si tratta di una vipera ed è già abbastanza. La piccola è in ospedale da un mese. In 3 settimane ho operato 3 pazienti per mordedura de cobra. L'ultima una donna di circa 25 anni. È arrivata con un ascesso al braccio sinistro e un'area di pelle necrotica di circa 20 centimetri. Dice che è stata morsa mentre dormiva nella capanna e quando si è svegliata per il dolore non ha visto il serpente. È stata al villaggio 5 giorni, poi, quando è salita la febbre, è venuta in ospedale. Mi domando, ma sarà davvero un serpente? Il veleno dei cobra causa neurotossicità ed è mortale nella gran parte dei casi. Il veleno delle vipere invece causa una tossicità locale, quindi in realtà una gangrena, una necrosi dei tessuti che può essere anche molto estesa, ma è locale. Sono le 2:30, fa un gran caldo, sono in ospedale dalle 8 non stop. Ho fatto un cesareo urgente, il giro in 3 reparti e sono cotto. Devo rientrare un salto a casa per fare pipì, bere, mangiare qualcosa, tirare il fiato. Passo davanti alla sala visite. Ci sono almeno 30 occhi che mi guardano, tra cui molti bambini. Stanno aspettando da alcune ore per essere visitati. Io distolgo lo sguardo. Dico all'infermiere che vedrò di fare in fretta. C'è gente che deve rifare 10 km a piedi per tornare a casa, magari col bambino sulle spalle, e non ha mangiato nulla. Io non ho la loro resistenza. Devo staccare un attimo. A casa mi aspetta Cristina, una signora di 65 anni che fa la domestica per i medici che ho sostituito e che ho temporaneamente ereditato. Tutte le mattine Cristina cammina per 1 ora e mezza per venire a lavorare. È preoccupata perché non mangia a mezzogiorno. Mi ha preparato riso e un sugo al pomodoro per condirlo. Le spiego che non ho tempo per sedermi e vedo che ci resta male. Allora mi accordo per un caffè e un po' di frutta e le prometto che mangerò tutto alla sera. Intanto le chiedo se può comprarmi un po' di patate e qualche birra al mercatino che c'è poco distante e si tiene sotto un grande albero. Quando lei torna, ha con sé una cassa di birra. Mi dice che venderà qualche bottiglia nel suo villaggio per guadagnare qualcosa. Questa notte voglio dormire. Comincio a non poterne più. Sono 10 giorni che sto in ospedale e non ho visto nulla al di fuori di questo. Finalmente piove e rinfresca e mi addormento, ma suona la campanella della porta. Sono le 2 ed è l'infermiere del reparto uomini. Mi dice che un paziente è grave. Quando arrivo è morto da 15 minuti. Aveva 20 anni, ricoverato per polmonite grave. Non ce l'ha fatta, ma aveva poche possibilità. Non abbiamo più farmaci antitubercolosi in ospedale. Li abbiamo finiti da quasi un mese. In tutta l'Angola scarseggiano. Questa è un'emergenza nazionale. La tubercolosi è un vero flagello qui in Angola. Cantala kukala kala Mwenengi sota kwebye Mwenengi sota kwebye Kala kala bwale Mwenengi sota kwebye Kala kala bwale Gala kiani shisoye Hakuetu ala. Finalmente per la prima volta abbiamo 1 oretta per fare un giro a piedi. Che meraviglia poter camminare un po'. Passiamo la chiesa e andiamo verso il fiume, che in questo periodo dell'anno è molto asciutto. Il Cunene, regione del sud dell'Angola, è un altopiano sui 1000-1200 metri d'altezza, con terreno argilloso, e quando piove tutto diventa palude. Il fiume di 30 metri di larghezza diventa 5 chilometri. Ci sono dei bambini che fanno il bagno nelle pozze d'acqua, mamme che lavano i vestiti, donne e ragazze che portano secchi e brocche d'acqua sulla testa. Mi sono sempre chiesto da cosa derivi il portamento regale delle donne africane. Mi passa davanti una ragazza con una bottiglia di plastica da 0,5 litro sulla testa. Si gira come se niente fosse e la bottiglia resta perfettamente in equilibrio. Un gioco di prestigio. È un'armonia perfetta tra il tronco, le gambe, le spalle, il collo e la testa. Crescono così fin da piccole. Oggi si festeggia. Maddalena, la pediatra, sta per rientrare in Italia e ha organizzato un piccolo party in reparto. Lei e Susanna gonfiano quei palloncini che spesso si vedono alle fiere, anche da noi. Sono lunghi e stretti e li puoi modellare in varie forme. I bambini sono tutti lì, ma non si accalcano, non gridano, non pretendono, aspettano che venga il loro turno per averne uno. Madò, la piccola con il dito amputato, mi salta in braccio. Tutte le volte che mi vede, sembra mi voglia ringraziare. E io le ho portato via un dito. Io faccio parte di un ONG che si chiama Medici con l'Africa QAM, che è una delle più antiche in Italia, purtroppo poco conosciuta, e sostanzialmente come un Médecins Sans Frontières italiano, per dare un'idea. Questa ONG si occupa specificamente di salute in Africa. Ultimo giorno, sono morto di stanchezza. L'esperienza è stata molto intensa, non solo fisicamente, forse ancora di più per l'impegno emotivo. Ho davanti agli occhi centinaia di volti e voci che chiedono aiuto sommessamente, senza urlare né protestare, per ritardi, presunte incompetenze o mancanze. Io voglio ridormire. Domani parto alle 7. Ma arriva la solita chiamata alle 2 di notte, anche l'ultimo giorno. C'è una bambina di 7 mesi che sta molto male. Mi cambio, afferro la pila e mi avvio. Passo zigzagando tra i materassini e le stuoie dove dormono i parenti sulle verande. Imbocco il corridoio verso la pediatria e nel cono di luce fatto dalla pila mi ritrovo a un metro da una grossa vipera arrotolata sul cemento. Mi si gela il sangue. Subito mi accorgo che non si muove. È in una posizione poco naturale. È appena stata ammazzata dagli infermieri che sono venuti a chiamarmi. A guardarla da vicino è molto bella. La pelle è coperta da disegni triangolari di un colore che varia dal beige al marrone chiaro all'ocra, in perfetta tenuta mimetica per gli arbusti della savana. Questi animaletti hanno denti lunghissimi, fino a 2 cm, e in doppia fila. Così, se dovessero spezzarsi i primi infilati in qualche grossa preda che si dibatte, ecco pronti i secondi a salvare il povero animale dalla morte per fame. Ora finalmente capisco quella donna che mi raccontava di essere stata morsa nel sonno. La vipera era distante meno di 5 metri dalle persone che dormivano sulla veranda. Di notte la temperatura scende e i rettili cercano volentieri le aree più calde. Arrivo ancora un po' scosso dalla bambina. È bellissima. È una piccola bambola nera con i riccioli decorati da perline, occhi grandi e spalancati. E sta davvero male. Dovrei fare accendere il generatore per darle un po' di ossigeno. Se accendiamo il generatore durante la notte, però, c'è il rischio che il motore, già molto usurato, non ce la faccia. E così saremmo senza elettricità in tutto l'ospedale per un bel po', forse settimane, forse mesi. E mentre sto combattendo con me stesso, lei toglie il disturbo e se ne va, lieve. Quando noi ci mille Il mio medico di famiglia, mentre ancora questa musica angolana, anni 60, mi diceva Tiziano Bonini, scorre sotto le nostre voci, cioè le nostre, sempre un plurale maestate, la mia voce, 349-238-6666. Max da Bologna mi scrive: sono nato a novembre del 1974 e il mio medico si è specializzato in pediatria nel 75, praticamente uno di famiglia, spero non vada mai in pensione. 349-238-6666. E ci sono quelli che invece dicono: ciao Matteo, io ho rinunciato ad andare dal mio dottore di famiglia perché quelle poche volte che mi sono presentato a spiegare i miei problemi lui mi diceva: sei una roccia, non hai niente, vai pure. Ci sono quelli che: ma va, ma c'era un medico, ricordo, diceva sempre: mangia un po' di yogurt. Ma dottore, ho mal di gola. Mangia un po' di yogurt che ti fa bene. 349-238-6666. Giulia ha scritto invece sul profilo Facebook: la mia dottoressa si chiama Cinzia, mi piace, cura dando farmaci con parsimonia. Quando è mancata mia nonna, che era sua paziente, è passata a salutare senza che nessuno le avesse chiesto nulla. Quando vede mio figlio piccolo lo coccola e per un attimo si sente meno medico e più mamma. Mi ha raccontato in poche frasi unite tra una visita e l'altra, a distanza di mesi, tra una frase e l'altra, che aveva una bambina che ora non c'è più. Dice spesso che sta aspettando la pensione per andare in Africa a curare i bambini, e credo che sia vero. Un giorno andrò in ambulatorio e scoprirò che se n'è andata da mesi. 349-238-6666, lui in Africa ci va e ci torna più di una volta, è Massimo. Pronto Massimo? Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Innanzitutto grazie per la tua storia e grazie anche per tutto quello che fai, anche se detto da una posizione comoda come la mia suona un po' retorico, però Ho letto la tua storia, che era molto più lunga di quella che ho raccontato. Come sai, purtroppo abbiamo limiti di tempo. E la sensazione è sempre quella, no? Che ci siano delle persone che fanno delle cose che altre non sono in grado di fare, come me, ad esempio, anche solo per formazione. Quante volte ci vai in Africa? Soprattutto con chi ci vai? Qual è l'ONG con cui lavori? Già lo dici, ma puoi ripeterlo per piacere. Sì, si tratta di Medici con l'Africa. QAM è il primitivo nome, poi siccome non era così facile da spendere . È stato aggiunto Medici con l'Africa, così è sicuramente più chiaro. Perché QAM era un acronimo, immagino. Sì, è un acronimo che sta per Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, che ha sede a Padova ed è un ONG che nasce nel 1950. E da allora io ho detto, questa è la mia storia, ma in realtà è la storia di centinaia di medici che sono andati in questi anni in Africa e che come me hanno vissuto le stesse cose e magari non hanno scritto, e non solo medici, anche infermieri, logisti. Ma a noi è capitato proprio, guarda, in questa stagione, credo un paio di mesi fa, di sentire la storia di un tecnico che faceva protesi, che è andato, non era in Africa, era ad Haiti per il terremoto e quindi ogni tanto qualche storia come simile alla tua, anche se diversa, però di solidarietà in loco ci arriva. Tu quante volte ci vai, Massimo? Come funziona esattamente? Tu fai parte di questa associazione e ogni tanto quando c'è bisogno ti chiedono e tu parti? Ora sì, all'inizio io sono andato in Africa nel lontano, per la prima volta nell'ottano 83, ci ho vissuto due anni e tre mesi facendo anche il servizio civile. E dove esattamente? Dove eri? Il primo periodo era il Tanzania sull'isola di Pemba. Poi sono rientrato, avevo già la prima figlia, è nato Marcello, secondo figlio, e poi siamo ripartiti con moglie e due figli per il Kenya, dove ho vissuto due anni ancora lì. Quindi da allora poi abbiamo dovuto rientrare, poi i bambini piccoli, poi ci sono state un po' la crisi della cooperazione, i progetti erano diventati più difficili e più, diciamo, più meno facili da raggiungere, e avendo le scuole e i bambini di mezzo è stato sicuramente più difficile, però sono rimasto sempre con l'ONG e ogni tanto mi chiedono se posso ripartire a coprire dei periodi di vacanza o dei vuoti. Questo è uno di quei casi, giusto? Quello, sì, che racconti, tu sostituivi un marito e moglie, giusto? Sì, due medici. Marito e moglie, che lui era chirurgo, lei internista, e tornavano per un periodo di vacanza sacrosanto, certo. Come avrai letto, immagino sia molto duro. Senti, ma le organizzazioni come Medici con l'Africa, con cui tu collabori, vivono di donazioni? Solo di donazioni o di progetti? No, ci sono anche dei progetti gestiti tramite il Ministero Affari Esteri, e siccome il QAM è una di quelle ONG particolarmente serie e accreditate, ha parte di questi progetti sovvenzionati dal Ministero Affari Esteri e parte da organizzazioni internazionali. Ora purtroppo si sa poco, ma diciamo i fondi della cooperazione dati dall'Italia sono veramente scarsi e siamo forse il penultimo o il terzultimo paese tra quelli sviluppati che destinano una parte dei fondi per la cooperazione. Abbiamo una parte del PIL veramente piccola. Massimo, scusami. Il resto viene raccolto attraverso raccolta fondi e donazioni, volontarie, esattamente, nel sottoscrizioni. La storia era anche per questo, per utilizzarla poi nei momenti in cui noi andiamo a fare presentazioni, informazione, e ovviamente associamo per raccontarla, insomma, delle pagine di diario di chi è stato là. A proposito di diario, Massimo, andiamo un attimo più a fondo nella sfera privata tua, perché la sensazione che ho avuto quando mi è capitato di incontrare persone come te che hanno lavorato, che fanno il tuo mestiere o mestieri simili, infermieri eccetera eccetera, che hanno lavorato in Africa, e l'ho ritrovata proprio nelle parole della tua storia, del tuo racconto, ho la sensazione che la prima emozione che si prova quando si leggono queste storie o si sentono queste parole sia di una grandissima impotenza, cioè da parte quasi soprattutto di chi va là e cerca di, appunto, lavorare 14 ore al giorno sentendosi in colpa per andare a fare pipì e a mangiare qualcosa a pranzo, come racconti tu. È così o è una sensazione? È assolutamente assolutamente vero, cioè è come se poi noi che siamo stati molti anni tra virgolette in Africa abbiamo vissuto i risultati è abbastanza frustrante. Tuttavia tu parli con uno che è ammalato profondamente del mal d'Africa e che è continuamente sottoposto a questa sorta di richiamo verso l'Africa, perché al di là di questa impotenza ci sono dei valori che riscopri enormi, il valore delle piccole cose, ma anche il valore delle persone, certo. Che come avrai visto, come anche solo guardare i bambini che ti guardano con occhi spalancati e non chiedono nulla. Chiaro, guarda, arriva tutto dalla tua storia e ti ringrazio ancora per averla raccontata. Massimo, in bocca al lupo per tutto e buona giornata. Grazie ancora Matteo. Ciao. Ciao. Grazie mille, ciao. Ho avuto come medico di famiglia il fratello della Camusso. È stato il migliore, bravo, gentile e disponibile. Alle volte mi raccontava della sorella, orgoglioso del suo impegno. È in Sud Sudan, così mi dice Margherita. Massimo, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Potrebbe essere dovunque in realtà, perché è all'interno di un ambulatorio, credo. Alle sue spalle c'è una finestrella da una parte e dall'altra invece uno di quei mobiletti medici pieni di confezioni, di medicine, di bottiglie piene di chissà cosa, insomma sicuramente medicinali. È abbracciato a una signora nera molto più piccola di lui o è altissimo lui o è bassissima lei, e lui ha su una t-shirt bianca, pantaloni bianchi e sembra comunque pronto. Medico. Sostantivo maschile. Professionista abilitato all'esercizio della medicina. Indica la professione più che la persona, alla quale ci si riferisce, comunemente, col titolo di dottore. Figurativo. Cura, rimedio. Etimo dal latino medicus, derivato di mederi, curare. Data prima metà del secolo XIII. 349-238-6666, anche il profilo Twitter di Voi Siete Qui. Voi Siete Qui R24. Domenico scrive con l'hashtag Il mio medico. Il mio medico preciso, informato, competente, con una memoria pazzesca, democratico e soprattutto disponibile. Perché esistono medici che non sono democratici? In che cosa un medico può essere democratico? A volte indovina, a volte non indovina il mio medico, qualcuno scrive. E poi invece il mio medico è una donna straordinaria, scrive Mohamed da Mirabello. Lei c'è sempre quando ne ho bisogno, carinissima, gentilissima, la ringrazio di cuore. Me la puoi salutare? Si chiama Cavicchi. E allora salutiamo a nome di Mohamed la dottoressa Cavicchi. 349-238-6666. Arrivano altre messaggi di persone che fanno anche il mestiere di Massimo. Kosovo, Eritrea, Etiopia, Afghanistan, Iraq. Così sembra Musumeci a elencare i posti, che è là tranquillo. Ogni tanto mi giro a cercarlo, se è in redazione, lo vedo con i suoi stivali. Ho sempre paura che da un momento all'altro dica: va, scusatemi, ho un aereo per Kabul. Dove vai? Dove vai? Tutti gli occhioni incrociati di quei bambini sono, ricordo, gelosamente custodito nella tasca del mio camice, mi scrive Massimo. E poi ancora, il mio medico si chiama Dario. Finite tutte le visite, mi saluta dicendomi a presto e io rispondo prontamente con un anche no. C'era arrivata un'altra storia sul profilo Facebook. Irene, eccolo qua. Il mio si chiama Enrico, lo conosco da quando sono alta così. Tira dei colpi di tosse da fumatore incallito. Una volta fumava pure con il braccio fuori dalla finestra mentre ti chiedeva come stavi. Ora ha smesso, ma questa cosa di sentirlo tossire mentre sei fuori che aspetti è rassicurante. Anche perché c'è sempre da aspettare un sacco. È il classico medico da cui fai almeno 4 ore di fila perché lui gli appuntamenti non li vuole. Tutti brontolano, ma quando c'è il sostituto non ci va nessuno. E lui arriva tardi, prende parole, ma poi rimane lì fino alle 9 di sera per far entrare tutti. A proposito di medici, c'è questa cosa che ogni tanto si dice e la si usa un po' a sproposito, devo dire, ma nemmeno a sproposito, la si usa senza sapere esattamente di cosa si sta parlando, che è, no, quando si dice: ah, c'era quel medico, è intervenuto anche se non era in camice, anche se non era di turno, e qualcuno dice: vabbè, hanno fatto il giuramento di Ippocrate, quindi ovvio che debbano intervenire. Nessuno sa esattamente cosa sia il giuramento di Ippocrate. Io quest'estate sono stato, perché ero in vacanza, no? Diciamo per motivi culturali, però è stato comunque interessante in quest'isola greca nel Dodecaneso, che si chiama Kos, che è l'isola di Ippocrate, dove nacque Ippocrate, e dove c'è l'Asclepio, che è il primo ospedale della storia, in sostanza. Esculapio, Asclepio, che poi era il dio della medicina. Ed è... io sono andato immaginandomi un ospedale, invece chiaramente sono delle rovine, però faceva effetto immaginare che lì ci fosse sorto il primissimo ospedale, tra l'altro su una collina meravigliosa che dava verso il mare. E ripensandoci ho detto, ma com'è esattamente il giuramento di Ippocrate? E abbiamo scoperto che ce ne sono due. Uno antico, che appunto giuro per Apollo, Medico e Asclepio, eccetera eccetera, sono quelli legati, diciamo, alla storia antica greca. Poi c'è il giuramento moderno, che è stato deliberato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordici Medici Chirurghi e Odontoiatri il 23 marzo del 2007, e recita così: consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento. Di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza. Di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica. Di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona. Di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico. Di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione. Di attenermi, nella mia attività, ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze. Di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali, di evitare anche al di fuori dell'esercizio professionale ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione, di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni, di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico, di prestare assistenza d'urgenza a chi ne ha bisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità, di osservare il segreto professionale e tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi ha confidato, e infine di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. Qualche giorno fa ho visto l'intervista a Pete Townshend, il chitarrista degli Who, da David Letterman, che ha svelato il segreto di quel movimento col braccio che fa quando suona la chitarra, e diceva: io l'ho visto fare a Keith Richards una volta a un concerto e ho pensato, che figata quella cosa, la devo fare anch'io. Poi dopo poche settimane abbiamo fatto un altro concerto insieme ai Rolling Stone e lui non l'ha fatto, e gli ho chiesto: Keith, scusami, ma quel movimento ampio col braccio per suonare la chitarra non lo fai più? E lui mi ha risposto: ma che mi frega, io sono Keith Richards, faccio un po' quello che voglio. E da quel momento l'ho fatto mio. Questo un pezzettino di storia degli Who, grazie a Tiziano Bonini che è tornato a se stesso e ha messo un disco, insomma, uno dei soliti che mettiamo. Sono arrivati alcuni messaggi finali. Il medico di mia sorella scrive su suggerimento dei pazienti, il mio visita invece non scrive a casaccio. E poi un medico simpatico ma obeso e fumatore era il mio medico di famiglia, che mio padre usava come scusa per mangiare troppo e fumare. È morto a 56 anni. Pace all'anima sua. Pace all'anima anche di Tiziano Bonini, Margherita Hina e Fabio Cantadori. Vi ricordo che invece giovedì notte c'è questo speciale che si chiama La notte prima della fine del mondo, alias Disperati Maya, giovedì 20 dicembre dalle 21 a mezzanotte, in compagnia di Federico Taddia, Massimo Gramellini e il filosofo della scienza Telmo Pievani. Una lunga diretta verso la presunta apocalisse, tra ironia, attualità, scienza e superstizioni. Potete intervenire se saremo ancora qui all'800 24 0024. La storia di oggi era di Massimo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Grazia, ho 65 anni e vivo a Verona. La storia di domani è la mia. Parla di una bella amicizia e di una ricerca particolare. Questa è la mia storia e io sono qui.